Essere se stessi per me è davvero tautologico, ma se non ci perdessimo come potremmo poi ritrovarci? Nel labirinto delle scorciatoie amo chi sceglie sempre strade diverse, allungando spesso il suo tragitto. Ma lo vogliamo cambiare oppure no? Questo è un hip hop.